Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo in apertura della riforma delle pensioni, o meglio delle proposte, delle ipotesi al vaglio del governo, delle proposte che sono arrivate anche dai sindacati, le reazioni a queste proposte. Ricordo che il ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo ha convocato per il prossimo lunedì 27 gennaio i sindacati per riprendere confronto sui temi previdenziali. I tecnici del governo sono al lavoro per gestire la scadenza di quota 100, che ricordo prevede il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi, introdotto dal primo governo Conte, confermata per il 2020. Era già nata nelle intenzioni del governo giallo-verde come ipotesi sperimentale, cioè si andava a vedere i primi 3 anni, poi si faceva il punto. La possibilità di anticipare il pensionamento quindi varrebbe fino al 31 dicembre del 2021, quando appunto scadono i 3 anni della sperimentazione. Lì sappiamo che il governo sta lavorando su quota 102, cioè 64 anni con 38 di contributi. I sindacati non vogliono quota 102, e poi ci sono state varie dichiarazioni invece sulla proposta dei sindacati, i 62 anni. E comunque ne parleremo in apertura. Poi invece parleremo anche del dato diffuso che è arrivato in fine settimana da Eurostat, e mi riferisco alla cosiddetta disuguaglianza o sperequazione, che vede sostanzialmente crescere. I dati vanno presi con le pinze per un motivo solo, perché i dati si riferiscono al 2008 fino al 2017 e come si è mossa la disuguaglianza, cioè il differenziale tra la percentuale più ricca e quella più povera del paese. Era 5,21 volte il differenziale tra la parte più ricca e quella più povera. Nel 2016 si era saliti a 6,27 volte, che resta il record. Poi si è scesi nel 2017 a 5,9, 6 volte nel 2018. Dico che va preso con le pinze perché chiaramente questo dato non incorpora, ammesso non concesso che vi sia un effetto, il dato, l'introduzione del reddito di cittadinanza, soprattutto nella parte che noi abbiamo sempre ritenuto corretta e giusta di welfare, quindi che è andata a rafforzare il reddito di inclusione. Molti dubbi, lo ripeto per la centesima volta, ma giusto per non essere frainteso, il sottoscritto li ha sulla parte che riguarda il lavoro, quindi la parte occupazionale, l'ipotesi che il reddito di cittadinanza possa effettivamente dare una mano a trovare un lavoro, mentre sulla parte di integrazione a welfare, cioè di chi è nella fascia, in chi è vicino sotto la soglia di povertà, ma a mio avviso è una misura corretta e buona e giusta. Però al di là di quello che penso io, che è poco importante, questi dati, la fotografia è scattata fino al 2018, quindi non incorporano un eventuale effetto del reddito di cittadinanza. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Poi torna come ogni lunedì, dopo la pausa diciamo natalizia e dell'Epifania, l'appuntamento con Dietro la Notizia con Alessandro Platerotti. Oggi parleremo di un tema, come sempre nell'appuntamento con Platerotti sono temi non sempre così ripresi dalla stampa. Al rischio, ecco perché ho fatto una crasi, delle obbligazioni societarie, cioè la Banca Centrale Europea è andata ad acquistare in questi anni miliardi di obbligazioni societarie grosse, nell'Atlanti, aeroporto di Roma, per quello che riguarda l'Italia, e con Platerotti ragioneremo se questo poi non rappresenti tra virgolette un rischio, o che tipo di rischio rappresenti per la banca centrale stessa. Come sempre poi l'appuntamento anche con i mercati finanziari, vi do subito un rapido aggiornamento: sono tutti leggermente negativi quelli europei, meno 0,60 Milano, meno 0,40 Francoforte, meno 0,12 Parigi, Londra invece fa più 0,35, Dow Jones più 0,20%. Milano cala soprattutto Telecom Italia meno 2,30, Prismian meno 2,20, Atlantia meno 1,90, Banco BPM meno 1,70 come UbiBanca ed Amplifon. L'1,5 lo perde Fineco, l'1,30 Pirelli e Juventus, bene Nexi più 1,80, Banca Generali più 1,5, ST Microelectronics più, più 0,80%. Devo dire, c'è un po' di cautela sull'ipotesi di accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Per quello che riguarda lo spread siamo a 154 punti. Quindi sostanzialmente stabile, l'euro su dollaro a quota 1,19. Ultime cifre, quelle per SMS e WhatsApp, 349-238-6666, poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Chiudiamo con i mercati per dare un aggiornamento anche su oro e petrolio, assolutamente scesi già dalla settimana scorsa, ma a 1,1555 dollari l'oncia l'oro e il petrolio anch'esso a 58,86 dollari. Meno 0,30%. Qualcuno mi dice che ho dato forse la quotazione sbagliata dell'euro-dollaro. L'euro-dollaro è 1,11. Se ho detto 1,19, chiedo venia, è 1,11, poco mosso. Andiamo avanti con le notizie. Allora, Alphabet, che è la holding, quindi la controllante di tutte le attività di Google, sta per entrare nel club delle società, sono poche, che valgono oltre o almeno 1.000 miliardi di dollari. E quindi Apple fu la prima a raggiungere i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, quindi capitalizzazione di borsa, poi seguirono Microsoft e Amazon, e adesso li ha superati come non tecnologico solo Aramco, quindi la compagnia petrolifera saudita che si è quotata e ha un valore di mercato di 1.870 miliardi di dollari, sta per entrare in questo riservatissimo club anche Alphabet e quindi Google. Nel frattempo Tesla continua a volare a Wall Street, i titoli hanno fatto un altro più 5% e hanno superato per la prima volta i 500 dollari per azione. E per quello che riguarda invece il settore auto, ma più tradizionale, secondo quanto scrive Financial Times, i dirigenti di Nissan starebbero intensificando i piani segreti di emergenza per separarsi da Renault. La cosa lì è interessante perché a suo tempo fu Renault in parte a salvare Nissan nella fusione, adesso sembra che sia Nissan a volersi sganciare da Renault, e che resterebbe a questo punto sola. Sappiamo che c'era stato, ne abbiamo parlato, un avvicinamento tra il gruppo Fiat Chrysler e Renault, poi tutto si era fermato e adesso invece Fiat Chrysler va avanti con Peugeot Citroën. Tra l'altro la famiglia Peugeot, che adesso ad ora ha poco più del 6% del capitale del gruppo che nascerà dalla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, è pronta ad esercitare l'opzione di acquisto del 2,5% prevista dall'accordo e quindi salire nella sua quota. Restiamo in tema di auto, perché la Germania, o meglio il principale quotidiano economico finanziario tedesco, insomma quello che è il Sole 24 Ore in Germania, Handelsblatt, rileva che con il passaggio alla mobilità elettrica sarebbero a rischio in Germania circa 410.000 posti di lavoro entro il 2030, perché non vi sarebbe un tasso chiaramente di sostituzione, sarebbero persi solo sul fronte della costruzione dei motori e degli ingranaggi 88.000 posti di lavoro. Ora lo studio non mette in evidenza quanti verrebbero creati, ma che vi sia un momento di frenata nella fase di trasformazione quantomeno temporanea, beh, ce lo dicono i dati sull'andamento del settore automotive in Germania, il dato che ha visto nel 2019 l'anno peggiore da oltre 10 anni nella costruzione e produzione di autoveicoli e appunto anche tutto lo scricchiolio dell'intera industria dell'auto tedesca. Andiamo infine alla parte italiana, insomma ci sono poche notizie oltre quelle che tratteremo, vorrei solo aggiungere un elemento che riguarda le vendite a novembre, le vendite al dettaglio, hanno fatto -0,2 su ottobre, ma il dato positivo riguarda l'anno su anno, che è quello più importante, novembre 2019 su novembre 2018 con un +0,9%, quindi denotando un trend, una tendenza positiva. L'alimentare è salito del 2,2% su base annua, e poi profumeria +3,8%, arredamento +2,2%. Invece in flessione i farmaci rispetto al novembre del 2018 -2,7%. E poi la voce foto, ottica, pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali -1,2%. Andando invece alla tipologia dei negozi, è stato un altro mese di rosso per i piccoli negozi, che hanno fatto -1,4% rispetto all'anno prima. Quelle online invece hanno fatto, le vendite online hanno fatto +4%, e la grande distribuzione ha fatto +3,3%. Quindi l'andamento positivo è limitato ai big e all'e-commerce. Lo dico perché tra l'altro questo andrebbe considerato nella polemica, non so che fine abbia fatto l'ipotesi delle chiusure domenicali, mi sembra che stiano tra coloro che sono sospesi o sospese, però attenzione, perché immaginare che il mondo del piccolo commercio possa recuperare solo attraverso l'imposizione delle chiusure domenicali, quando il dato più forte è quello dell'e-commerce, a mio avviso è un po' miope come approccio. Tra l'altro la Coldiretti invece evidenzia che il Black Friday è stato un flop, stagnazione degli acquisti dei prodotti non alimentari e anche tra l'altro la crescita più contenuta nel passato del commercio elettronico +4%, quindi dà una lettura leggermente diversa. Va detto che l'incremento dell'e-commerce, delle vendite online, è stato il più modesto rispetto a quanto non visto nel 2018, e anche l'Istat fa notare che c'è stata una stabilizzazione del Black Friday. Cosa vuol dire? Che vuol dire che non c'è stato il boom degli acquisti degli anni passati, un po' perché si è perso l'effetto, a mio avviso, novità, e anche perché non è più il momento topico per acquisti molto scontati. Sappiamo che poi molte promozioni commerciali trasformano in Black Friday anche altri giorni della settimana o giorni dell'anno. Vicenda Atlantia. Alcuni investitori internazionali del gruppo Atlantia stanno per inviare all'Unione Europea una lettera di protesta contro la norma del decreto mille proroghe che modifica in modo unilaterale le concessioni autostradali. Ci preoccupa molto, scrivono, scoraggia gli investimenti e restringe senza giustificazione la libera circolazione dei capitali. Qui la posizione di chi vi parla la conoscete, cioè è indubbio che il governo, dopo quello che è successo, e non travalicando né entrando nel campo delle indagini della magistratura, che va a attribuire poi responsabilità specifiche e colpe specifiche, qualunque governo avrebbe rimesso in discussione le concessioni autostradali, visto quello che sta succedendo su parte della rete e visto anche quello che abbiamo notato e registrato tra un rapporto tra investimenti effettuati e aumento dei pedaggi. La mia posizione, spero abbastanza laica e pragmatica, è dire benissimo, non facciamo una battaglia ideologica, facciamo gli interessi della collettività. Quindi se un contenzioso deve poi trascinarsi per anni non risolvendo nulla, rischiando di far pagare alle casse dello Stato non i 7 miliardi stimati, che comunque già sono tanti, ma di più, vediamo se ci sono altre formule. Non è un occhio di riguardo per Atlantia, non me ne frega nulla, è un occhio di riguardo per non entrare in vicende dal carattere solo diciamo di vessillo, di bandiera e poco concrete. Io vorrei che gli investimenti venissero fatti accelerati con un costo per chi non li ha fatti, senza un costo, diciamo così, per le casse dello Stato. Una buona notizia e poi passiamo al primo tema, anzi una notizia buona e una meno. Allora, intanto oggi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali c'è stato un nuovo incontro sulla situazione dell'azienda La Perla Manufacturing e La Perla Global Management UK. Allora, le parti hanno raggiunto un accordo per la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria fino al 31 ottobre del 2020. L'intesa raggiunta riguarda complessivamente 65 dipendenti. E questa è la buona notizia, diciamo, perché almeno va avanti la cassa integrazione straordinaria fino al 31 ottobre. E invece oggi c'è stata una manifestazione dei lavoratori della ex Embraco, oggi di proprietà della Ventures, nella zona nord di Torino, dove hanno chiesto di alle istituzioni e alla Whirlpool di mettere in atto tutte le possibili soluzioni per salvaguardare il posto di lavoro di oltre 400 persone. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo con il primo dei temi, e quindi l'incontro è fatto il 27 gennaio. Immagino vi sia anche un motivo politico, si vota in Emilia 26, un tema come quello delle pensioni, anche tutto da affrontare, si fa slittare al 27. Sappiamo, e se ne è occupato il Sole 24 Ore, tra l'altro il Sole 24 Ore da mercoledì avrà la guida in edicola, le pensioni 2020 guida facile, quindi la mappa dei requisiti per le vie d'uscita a legislazione vigente. Non cambia adesso infatti la legislazione, però da un lato il governo sta lavorando per gestire quota 100, ripeto, era già previsto dal governo giallo-verde quando l'ha introdotta che durasse 3 anni e poi vi fosse una valutazione della sperimentazione. Quindi ad ora vale fino al 31 dicembre 2020. Non è in discussione sul 2021. Non è in discussione sul 2020. Il governo starebbe lavorando su un'ipotesi di trasformarla in quota 102, cioè sempre 38 anni di contributi ma 64 anni di età, e i sindacati invece dicono no, non va bene quota 102, chiedono sostanzialmente l'uscita a 62 anni. Dunque, e quindi è anche un superamento della legge Fornero, in pensione dai 62 anni con almeno 20 anni di contributi e calcolo della pensione prorata, oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età, con sconti per i lavoratori onerosi, i lavori gravosi, i giovani che hanno avuto carriere discontinue, cioè che non sono riusciti a versare i contributi in alcuni anni. Chiaro è che l'obiettivo finale per il governo è superare quota 100 e avere anche un risparmio di carattere economico. Vediamo il costo, infatti. Dunque, l'anno prossimo si ipotizza di spendere con gli attuali parametri 8,8 miliardi. In realtà, guardando al flusso del 2019, dove si calcolavano 350.000 uscite, se ne sono verificate solo 120.000, l'esborso, diciamo, la quota 100 è costata 4 miliardi e mezzo. Se voi venisse introdotta quota 102, il risparmio sarebbe di altri 2 miliardi, cioè farebbe scendere la cifra 2 miliardi e mezzo. 2 miliardi che, lo dico per capire le alternative, potrebbero finanziare un taglio un po' più consistente al cuneo fiscale. Sappiamo che quest'anno il cuneo partirà da luglio e varrà solo 3 miliardi, l'anno prossimo dovrebbe valerne 5, forse 6. Certo, mettere altri 2 miliardi sul cuneo sarebbe un'iniezione un po' più forte in busta paga per le fasce che sono incluse. Però, ripeto, la proposta non piace ai sindacati, mentre l'ex ministro Fornero ha definito la proposta dei sindacati con l'uscita a 62 anni con 20 di contributi un esercizio di irresponsabilità, e l'ex presidente dell'INPS Tito Boeri dice la proposta dei sindacati porterebbe al fatto che le persone che vanno in pensione a 62 anni sarebbero trattate meglio di chi continua a lavorare. Allora, uno dei massimi esperti del Sole 24 Ore, Davide Colombo. Buonasera Davide. Buonasera a te. Poi andiamo sul meteo. Come nasce questa proposta dei sindacati? Cioè, fino ad ora noi abbiamo sempre visto il governo, che prima stava all'opposizione, in PD, essere molto critico su quota 100, soprattutto Italia Viva, e poi era uscita l'ipotesi, ripresa anche in prima pagina sulle 24 ore, di quota 102. Capisco che ai sindacati non possono piacere quota 102, ma arrivare a proporre una quota che vede 62 anni con almeno 20 anni di contributi mi sembra anche più... così, una proposta ancora più morbida rispetto all'attuale quota 100. Sì, diciamo che non vorrei che ci fosse un'influenza francese, visto che c'è questa agitazione in Francia sulla riforma delle pensioni, che ha, diciamo, il loro sistema ha come età pivot in questo momento 62, quindi non vorrei che ci fosse un'influenza transalpina. Diciamo che un riferimento più nostro invece è nel fatto che dopo la riforma Fornero è prevista nell'attuale legislazione una forma di flessibilità in uscita con soli 20 anni di contributi a un'età minima che è più bassa dei 67 anni, e però vale solo per i cosiddetti contributivi puri, cioè per coloro che hanno iniziato a lavorare dal gennaio del 96. Allora, una delle proposte molto forti del sindacato è consentire questa flessibilità a tutti i lavoratori che stanno andando in pensione, cioè anche quelli che hanno ancora una parte della montante contributivo calcolato con il vecchio metodo retributivo prima della riforma Dini. Ora, fare questa operazione significa consentire un pensionamento anticipato a 62 anni, per esempio, oppure in una fascia tra i 62 e i 64 anni, una flessibilità dentro un corridoio di 2 anni a corti di lavoratori molto numerose. Allora, questa operazione ha un costo molto elevato, di forte impatto sulla finanza pubblica. Può essere approcciato solamente se si scende a patti e si fa una correzione attuariale della parte dei versamenti che sono stati fatti, calcolati con il metodo più generoso, cioè retributivo, e trasformati a calcolo contributivo. Naturalmente, in questo modo, uscendo a 62 o 64 anni, si ha una decurtazione, un taglio della pensione di un certo rilievo rispetto all'attuale situazione, cioè se un lavoratore con una situazione mista, un po' retributiva, un po' contributiva, come è adesso, stanno andando in pensione, naturalmente con un, chiamiamolo, ricalcolo della parte della prima parte di contribuzione della sua vita attiva avrebbe una riduzione. Ma questo è l'unico modo per rendere sostenibile, o almeno per vedere dei conti di quanto costerebbe, quanta maggiore spesa viene innescata con questo meccanismo. Se vuoi un riferimento molto così numerico, si parla molto in Francia di riforma delle pensioni e lì la contestazione è non alzare a 64 anni, rimaniamo a 62 anni, e su questo abbiamo visto lunghe settimane di scioperi. Ecco, teniamo conto che la spesa per l'invecchiamento, che comprende non solamente le pensioni ma anche la reversibilità, il long term care, eccetera, in Francia pesa il 24% del prodotto, in Italia supera il 33%. Il debito pubblico francese. Sì, faccio anche notare che il debito pubblico francese è sotto il 100%. Esatto, il debito pubblico francese. E c'è un altro francese. Elemento che a te non sfugge, è il tasso di natalità. Cioè, la Francia è l'unico paese. Stavo arrivando, certo. Ci sono, oltre al tasso di natalità, abbiamo un debito pubblico in Francia che è di oltre 30 punti al di sotto del nostro, oltre 33 punti al di sotto del nostro, e hanno un'aliquota contributiva, visto che si parla anche di cuneo fiscale, del 27% contro il 33% nostro. Lo dico perché i margini che ha un paese come la Francia per ragionare di questi aggregati, certo, di spesa sono molto maggiori dei nostri. Purtroppo noi dobbiamo fare i conti con un alto debito pubblico, una molto elevata spesa previdenziale, sociale che pesa sulle altre spese socioassistenziali, che blinda il nostro welfare da molti anni, e questo è il margine molto ridotto in cui bisogna fare. Allora, da quello che capisco io, Davide, insomma, il governo punta a risparmiare un po' di soldi dal costo previsto di quota 100, anche perché, pur tenendo buona la cifra non troppo alta di 8 miliardi e 8, ma quella spesa l'anno scorso, 4 miliardi e mezzo, ipotesi 102 vorrebbe dire 2 miliardi di risparmio da destinare, come dicevo io, secondo quanto ha detto il governo, al taglio del cuneo fiscale. Qualcuno mi chiede se però è in discussione sul 2020, no, da quello che capisco io, quota 100, questo, quota 102 sarebbe al 2021, giusto Davide? No, sarebbe sul 2022, perché la sperimentazione si conclude alla fine del 21. Ok, quindi i soldi verrebbero messi sul 2022. Detto questo, la proposta del governo punta a rendere meno onerosa e destinare le risorse da altre parti. Quella dei sindacati, a mio avviso, rende ancora più oneroso. E tra l'altro, ripeto, hai fatto bene a ricordare che il parallelismo con la Francia non esiste come tasso demografico. Sono l'unico paese in Europa che ha un tasso demografico in cui la popolazione non invecchia, ma cioè il tasso è superiore al 2, mi sembra 2-1, adesso non vorrei dire una cavolata, diciamo che stanno sopra il cosiddetto tasso di rimpiazzo, cioè il livello più nati il quale che morti, la popolazione, diciamo, non decresce. E dall'altro abbiamo un piccolo problema di debito che è a 133-134% del PIL, la Francia non ce l'ha e ha una tassazione diversa. Dopo il metro e pubblicità vorrei capire invece cosa prevede completamente l'ipotesi del governo e che punto di caduta vi possa essere nell'incontro che il ministro Catalfo ha fissato per il 27 gennaio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Dunque, Davide Colombo, dicevo, l'ipotesi invece del governo e il punto di caduta, visto che il 27 vi sarà l'incontro al Ministero sulla riforma delle pensioni. Ma dunque, diciamo che intanto siamo ai primissimi passi di un policy making che secondo me si svilupperà per diversi mesi e non sono neanche sicuro che entro quest'anno, a meno che per scelta politica lo vogliono fare, proporranno una prima ipotetica soluzione. Come dicevamo prima, la sperimentazione finisce alla fine del 21. Le posizioni del governo: nell'intervista di oggi il Presidente del Consiglio ha fatto un esplicito riferimento a una soluzione che tenga conto della gravosità dei lavori. Questo secondo me significa che inizialmente punteranno a proporre una graduale estensione della platea di coloro che oggi possono andare in pensione prima, facendo pesare la gravosità della loro mansione, della loro professione. Diciamo che in questo momento una quota di riferimento, un ordine di grandezza di riferimento sono i 61 anni come requisito minimo per gli usuranti con 35 anni di contributi. Bisognerà vedere se sarà quella la strada. L'alternativa della quota 102, che è stata come dire esplicitata con delle prime cifre sul nostro giornale da Alberto Brambilla, che è stato anche uno dei teorici che ha lavorato alla quota 100 attuale, anche se poi l'ha sconfessata perché non si riconosce nella soluzione finale che è stata adottata, è una ipotesi che, come dicevi tu prima, implica dei marginali risparmi rispetto a quella che è quota 100 attuale, ma dei costi in più quando si ritorna nel 22 a quella che era la legislazione prima della sperimentazione di quota 100. Cioè, se noi consideriamo che non si fa nulla, nel 2022 tornano i vecchi requisiti vecchiaia e anzianità a 42 anni e 10 mesi nel caso dei maschi, 41 anni e 10 mesi per le donne, e a quel punto, diciamo, la spesa si riduce. Se invece si introduce quota 102, la spesa può avere un andamento attorno ai 2,5 miliardi in più all'anno nei primi 8, 9, 10 cioè anni fa risparmiare rispetto a quota 100, ma è più cara rispetto alla, è certo, alla è certo. Fornero pre quota 100. È certo, perché se alla fine della sperimentazione si torna alla normalità, diciamo, così come per esempio Sebastiano, se la indicizzazione delle pensioni all'inflazione dal gennaio del 22 tornasse alla normalità su 3 aliquote anziché sulle 7 attuali, molto generose, ci sarebbe un risparmio di spesa molto piccolo, perché siamo sostanzialmente in deflazione da anni, però anche lì ci sarebbe una minore spesa. Su questi fronti si muoverà la trattativa e sarà una trattativa, un confronto tecnico e anche molto politico che io penso si svilupperà per lunghi mesi, a meno che, ripeto, la scelta politica sia di voler dare un segnale prima. Come sappiamo, le pensioni sono un tema politicamente molto divisivo. Certo. Allora, staremo a vedere dopo il 27. Intanto grazie Davide Colombo. Grazie a voi. Cambiamo adesso radicalmente tema, perché ci occupiamo di mercati finanziari, ma prima ancora torna, come dicevo, l'appuntamento con Dentro e Dietro la notizia dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dietro la notizia. Minuti, dunque torna Dietro la notizia con Alessandro Plateroti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro, buon anno, visto che... Buon anno a tutti e buonasera a te Sebastiano. Dunque, l'argomento di oggi, tu tocchi sempre temi che non sono di primo acchito delle volte, ma hanno un grosso impatto. Può sembrare, me l'ha scritto anche un ascoltatore, ma è un po' tecnico il tema. Attenzione, perché poi tecnico fino a un certo punto. Noi sappiamo che la Banca Centrale Europea in questi anni, oltre che tenere i tassi a zero e oltre che operare il quantitative easing, cioè comprare titoli di Stato che permette allo spread anche italiano di essere basso, compra anche titoli delle obbligazioni societarie, cioè debito di grandi società. Nel caso dell'Italia, per esempio Enel, Atlantia e Aeroporti di Roma. Cito Atlantia e Aeroporti di Roma perché sappiamo le difficoltà del gruppo Atlantia, che controlla anche l'aeroporto di Roma, vista la trattativa, diciamo, molto dura con il governo sul fronte concessioni. Qual è il tema? Cioè, la Banca Centrale Europea fa bene a comprare obbligazioni societarie, nel senso che hanno determinate caratteristiche, non è che si mette a rischio e non mette a rischio il patrimonio delle BCE. Esatto. Ma è un'attività, diciamo, normale. Perché ne parliamo? Non è normale, fa parte del pacchetto di interventi che erano stati decisi con la crisi del credito per rilanciare, diciamo così, e sostenere i mercati finanziari. Dopodiché, quando si sono accorti che i titoli di Stato non sono l'unica forma di debito che gira sui mercati, ma esistono anche le obbligazioni aziendali, di cui tra l'altro i nostri risparmiatori italiani sono pieni, perché sappiamo bene che i titoli di bond di Enel, di tutto l'universo Snam, molto comprati, sono certo. molto acquistati. Allora, che cosa succede? La BCE decide, su input poi della Commissione, di cominciare a comprare questi bond. La BCE per statuto non può perdere soldi. Ora veniamo ai giorni nostri. Faccio presente che stiamo parlando di 183 miliardi di euro spesi in obbligazioni, non è una cifra secondaria. Che cosa succede? Succede che BCE comincia a comprare negli ultimi anni obbligazioni di emissioni italiane. Che cosa compra? Compra soprattutto le utilities, parlo di Enel, Snam e trasporto dell'energia, ma comincia a comprare soprattutto società infrastrutturali. E che cosa compra? Autostrade, aeroporti di Roma, Atlantia. Ora, questo è interessante per quale motivo? Premesso che era una società con un buon rating, certo. Che le vicende italiane legate alla concessione di autostrade stanno portando non solo in picchiata il valore dei bond e delle azioni di Autostrade, ma soprattutto mettono a rischio l'investimento di BCE. BCE per statuto non può perdere. Allora, che cosa succede? Se il governo italiano va avanti con la linea dura su Autostrade, facendo capire che è pronto a ritirare la concessione, la BCE potrebbe essere costretta a vendere tutte le obbligazioni di questa società per non incassare la perdita. Questo accelererebbe ulteriormente il rischio di un default. Quindi, come vediamo, era un'iniziativa partita con le migliori intenzioni, che però si è rivelata, purtroppo per le complessità che ci sono adesso sui mercati, molto molto molto difficile da gestire. Tra l'altro l'Italia sarebbe il primo paese di quelli coperti dal programma di acquisto delle obbligazioni a far registrare una perdita della BCE. Quindi ci dobbiamo muovere con molta cautela, ma non è soltanto questo che mi ha colpito del dietro le quinte di queste operazioni. Sono le altre società. Per esempio, sono esclusi dagli acquisti di obbligazioni da parte della BCE le società, le banche, le società finanziarie e quelle che non sono sostanzialmente società industriali. Beh, cosa abbiamo trovato dentro questo paniere un po' a sorpresa italiano? Abbiamo trovato le obbligazioni di Esselunga. Ora, qual è il rapporto fra la BCE e Esselunga? Questo è molto molto difficile da chiarire. O abbiamo trovato anche le obbligazioni di Exor, che è la finanziaria della famiglia Agnelli. Allora, dov'è il confine fra una finanziaria di investimento e un holding industriale? Là è molto poco chiaro, però colpisce che cosa? Che la BCE è andata a fare un paniere di aziende italiane che è molto eterogeneo, ma che presenta soprattutto dei profili completamente diversi, perché Exor è una holding privata, quotata, Esselunga è l'unica grande distribuzione presente nel paniere. Aspetta che poi sarà la Conad. Nel paniere della BCE, sì, nel certo. Paniere della BCE, per cui sono... Cioè tu dici, un conto è investire in titoli che si chiamano di carattere industriale classico, esatto. Le utilities, quindi altre energia. Altre che si spiegano poco, soprattutto altre, che sostegno avevano bisogno. Altre, diciamo, autostrade... Comunque se volete una cifra, io una cifra ve la posso dare. Dici. In questo momento la BCE, cioè il sistema delle Eurobanche, possiede 10 emissioni diverse di autostrade, 2 emissioni di Atlantia e 2 di aeroporti di Roma. Stiamo parlando di 14 diverse emissioni a medio termine, che sono tutte nelle mani della BCE. Ora, diciamo, era un investimento sicuro? Sicuramente poteva essere in un paese normale. No, ma la critica non è... Questa più che una critica è un'analisi, è capire. Esatto, è interessante questo. A chi mi scrive, tanto sapevo che andava così. Ecco, questo è il modo in cui fate entrare dalla difesa ai Benetton. No, guardi, no, io ho credito in apertura del programma, anche perché c'era quella notizia che riguardava gli investitori privati, che la soluzione in maniera molto pragmatica che io vorrei è una soluzione in cui io cittadino e quindi Stato italiano non spendo un euro. Perché se è vero, come sembra vero, che c'è stato un problema, non è che sembra vero, ci sono i dati sui i crolli, un problema di investimenti infrastrutturali a fronte di pedaggi che invece sono sempre aumentati. E noi abbiamo dato in queste settimane e mesi anche la statistica di come rallentano gli investimenti autostradali di Atlantia negli ultimi anni. È assolutamente corretto che lo Stato chieda a la messa in sicurezza di una rete autostradale per cui io pago il pedaggio, B che blocchi l'aumento dei pedaggi, C che vada a rinegoziare tutto quello che è l'investimento di Atlante, in questo caso del Benetton. Quello che non voglio è che lo Stato ci perda dei soldi, nel senso che ho capito che mille proroghe porterebbe da 23 a 7 miliardi il costo per lo Stato. Siamo sicuri che andrebbe così liscia la cosa? Che non si aprirebbe un contenzioso che dura anni con gli azionisti di Atlantia? Siamo tranquilli sull'occupazione, perché ripeto, a me degli azionisti di Atlantia può anche non interessare, ma degli occupati di Atlantia sì. Non capisco di cosa mi devo vergognare, quello che scrive un ascoltatore. Cioè, siamo sicuri che il passaggio, come hanno detto alcuni esponenti del governo, da Atlantia ad ANAS avverrebbe in maniera così liscia? Tutto questo voglio sapere. E dopodiché mi sembra innegabile che ci sia un problema nel modo in cui i concessionari hanno gestito la concessione. Si tratta di non trasformare in una battaglia ideologica e per motivi solo elettorali da sbandierare per poi ottenere che cosa? Che alla fine paghiamo noi. Alessandro, volevi intervenire? No, c'è il danno, sì, esattamente, quello che aggiungo a quello che dici, questo aspetto, che quello che è più, diciamo così, pericoloso per noi è il prolungare della polemica, è lasciare in questo stato di incertezza su quello che vuole fare lo Stato. Io non sto parlando dal punto di vista né giudiziario, né parlando da un punto di vista puramente, in quel senso, per i risparmiatori, cioè chi ha investito su queste società. Allora, il nome di queste persone che bisogna fare chiarezza. Fra l'altro, ripeto, se andiamo a guardare quello che succede negli altri paesi, laddove ci sono delle concessioni date a terzi, a dei privati, il sistema della rete dei controlli della qualità rimane allo Stato. Ora, lì è stato il grande errore, a mio avviso, fatto in Italia, quello di delegare anche la verifica della sicurezza. La famosa SPEA, che adesso gli stessi, ma certo, deve essere, oppure datela direttamente invece. No, ma io lo dico perché vedo che alcuni sono già tutti esperti, non bisogna revocarle senza ma le tue sono solo vabbè. Ho capito. Non bisogna revocare o bisogna revocare? No, bisogna revocare, perché c'è qualche ascoltatore che sa già che non vi saranno problemi di contenzioso giuridico. Io quello che temo, sa cos'è? Temo un contenzioso giuridico in cui, se viene fuori che il Ministero dei Trasporti negli anni passati non è intervenuto e ha avallato alcune decisioni, parte un contenzioso che dura anni Nel frattempo io voglio capire chi fa gli investimenti, è in dubbio che e lo rischiamo come cittadini, come Stato, di non aver ragione alla fine. Allora, non ho detto che bisogna far continuare a lavorare Atlantia, io voglio semplicemente che Atlantia investa il più possibile, investa e metta in sicurezza quello che già doveva mettere in sicurezza, perché i pedaggi li abbiamo già pagati, e chi vi parla, come anche Alessandro Praterotti, è uno che i pedaggi se li paga, senza perderci un euro, cioè che non diventi una battaglia contro i Benetton, ma diventi una battaglia per la messa in sicurezza della rete, far pagare alle varie concessionarie, che si chiamino Atlantia, che si chiami Gavio, che si chiami come volete voi, gli investimenti da dove non sono stati fatti, e poi ci sarà la magistratura che va avanti in parallelo a stabilire le responsabilità giuridiche anche di carattere penale, perché ci sono stati 43 morti su Genova e rischiavano di essercene anche. Ecco, ma facciamo qualcun altro mi dice imbarazzante la difesa dei concessionari, vabbè. Ma non è imbarazzante, ma non difendiamo nessuno qua, si sta cercando semplicemente di far capire quante problematiche si legano a un incidente purtroppo dove ci sono dei morti, è un ponte che crolla. Ma attenzione, ma cerchiamo di essere anche oggettivi su un altro aspetto. Quando le Ferrovie dello Stato ebbero quell'incidente per cui Moretti fu condannato, te lo ricordi, di Inversilia? Certo. Ecco, che qualcuno ha pensato di togliere la gestione delle ferrovie allo Stato perché le gestiva male? Sono d'accordo, e guardi, ecco, che chi mi scrive Barisoni, vado a dire alle famiglie delle vittime, sta facendo esattamente, mischiando l'elemento A di carattere giudiziario, ci sono dei PM che indagano e ripeto, si va nel penale, lì non si va semplicemente a gestire le concessioni. B, io non ho mai parlato delle vittime, vorrei che quella cattiva gestione, perché tutto possiamo dire tranne che fosse una buona gestione della rete autostradale, venisse messa in sicurezza senza che io cittadino ci perdessi un euro e con la certezza di non perderci un euro fra degli anni, cioè con tutti i puntelli giuridici. Comunque adesso io devo chiudere perché c'ho il GR24, ringrazio Alessandro Praterotti che vedremo la prossima settimana, lunedì prossimo, GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti. Adesso vorrei passare alla disuguaglianza in questo paese. Una risposta però ai molti WhatsApp, SMS sul tema delle concessionarie. Torneremo adesso, non ci sono elementi di cronaca. Non penso fosse così difficile, ma nessuno vuole né fare un favore alle concessionarie, né si sta dimenticando, anche perché è impossibile dimenticarsi di 43 morti, di quello che è successo poi su altri viadotti, sulla galleria, per fortuna in galleria senza morti. E ci sono inchieste non solo su Genova ma anche sul resto della rete della magistratura. Ho solo detto che siccome lì c'è un contratto che firmarono i governi precedenti, ma è un contratto, quello che non vorrei è che per una battaglia solo politica, per mettersi la medaglia di noi abbiamo attaccato Atlantia e Benetton, ci infiliamo in un pasticcio in cui non è chiaro se poi tocca pagare i 7 miliardi, non li voglio io, li ha decisi il governo nel mille proroghe, trasformando quello che sarebbe stata una penale da 23 miliardi in 7. Per me anche 7 sono comunque tanti, perché sono più di quanto metteremo l'anno prossimo, ammesso non concesso, di riduzione del cuneo fiscale. E quindi vorrei arrivare a una soluzione non di carattere giudiziario, lì c'è la magistratura, ripeto per la terza volta, in cui lo Stato fa valere i suoi diritti e dice: cari concessionari, non c'è solo Atlantia, con quello che è successo chiaramente la situazione, non avete investito come dovevate, i pedaggi sono aumentati, quindi o investite, tra l'altro la SPEA, l'errore fu fatto perché non può, il controllore non può essere diciamo controllato da chi deve controllare, abbiate pazienza, la SPEA è la società del gruppo Atlantia, e andiamo a vedere tutti gli investimenti che dovete fare che non avete fatto senza un esborso di un euro per il cittadino, e poi andiamo a vedere a mettere le concessioni in gara. Dire semplicemente tanto va tutto all'ANAS, non cambia niente, mi sembra un po' semplicistico, e poi ho anche semplicemente detto che mi interessa anche il futuro occupazionale dei dipendenti di Atlantia. Ah. Dunque, nessun contratto è valido davanti a una strage. Guardate che non funziona esattamente così, perché A, la magistratura deve stabilire le responsabilità sulla strage. Due, siamo così sicuri, non sono un esperto giurista, che lo Stato possa revocare nel mille proroghe ha ridotto di molto quello che sarebbe la penale, portandola da 23 a 7 miliardi. Questo il governo, non il sottoscritto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, per quello che riguarda la borsa, vi do rapidamente un aggiornamento, perché meno 0,50% alla fine Milano. Telecom, tra l'altro Telecom, appena notizia appena battuta, c'è una multa dell'antitrust, adesso ve la riesco a riprendere, una multa dell'antitrust a TIM da 4,8 milioni di euro per pratiche scorrette. Il titolo comunque oggi ha perso 2,40%, Prismian il 2,20%, Amplifon l'1,90%, Banco BPM meno 1,80%, UBI meno 1,70%, Fineco meno 1,5%, come Atlantia, Juventus meno 1,30%, Terna meno 1%. Fronte opposto Nexi più 1,60, Banca Generali più 1,30 e Steam Electronics più 0,80%. Tra i titoli minori, però a maggior movimento in borsa, Innovatech più 15%. E poi gruppo Green Power più 16, Netwick più 13,70, fronte opposto invece WM Capital meno 6,70, Jequity meno 5,50 come Titanet. Perché ci occupiamo di chi genera lavoro, di disuguaglianza e anche insomma di quello che sta capitando alla formazione? Perché c'è oggi, o meglio, è uscito nel fine settimana, la fotografia di Eurostat, che dice sostanzialmente che guardando il periodo tra il 2008 e il 2018, quindi pre-introduzione della reddito di cittadinanza, è aumentato il differenziale tra ricchi e poveri nel nostro paese. Valeva 5,21 volte, nel 2016 era salito addirittura a 6,30 volte, poi è sceso nel 2017 a 5,9 e nel 2018 era di nuovo a 6 volte. L'Italia tra l'altro è il paese che ha l'ampiezza della differenza più forte, ci battono solo Serbia, Bulgaria e Romania dove si ha 8,6, 7,6, 7,2 volte. La Spagna è come noi, 6 volte, maggiore equilibrio nella distribuzione della ricchezza in Germania 5 volte e in Francia 4,2 volte. Professor Massimo Baldini, che insegna economia pubblica all'Università di Modena ed è autore, coautore del libro Disuguaglianza, povertà e politiche pubbliche, buonasera. Buonasera. Dunque, un primo commento a questi dati, ripeto, manca il dato sul 2019 dove forse si sarebbe potuto vedere, forse, un effetto nel reddito di cittadinanza per quello che riguarda il welfare, non per quello che riguarda l'occupazione, sì. Ripeto le mie critiche, lì non servirà quasi a nulla, ma invece Tridico ha fatto notare che la parte che è di welfare, cioè che va a rafforzare e rendere ancora più, spero, efficace quello che era il reddito di inclusione fatto dal precedente governo, vale per 1 milione di nuclei familiari. Baldini. Sì, e dunque il dato che ha citato lei del rapporto tra il 20% più ricco e il 20% più povero della popolazione è in aumento appunto negli ultimi 10 anni, anche se negli ultimi anni più o meno è stabile dal punto di vista meno statistico, perché è tratto da un campione di circa 20.000 famiglie, quindi c'è un certo margine sempre di errore. Diciamo i due motivi fondamentali per cui ha comunque aumentato, anche se non tanto, durante il periodo del decennio della crisi, sono fondamentalmente il diverso andamento delle regioni italiane, cioè il sud è andato peggio, il reddito è cresciuto meno e quindi si è ampliato il differenziale, e poi l'immigrazione, soprattutto nella prima parte del decennio, perché negli ultimi 5 anni è molto rallentata, però sono arrivate in Italia famiglie sicuramente povere e questo contribuisce ad aumentare la povertà. E l'altra cosa interessante da notare, è vero che in Italia l'Italia ha un livello di disuguaglianza molto alta, e questo dipende da due fattori. È molto alta la disuguaglianza fra le famiglie in generale, ma è alta anche la differenza fra il reddito medio delle regioni e del centro-nord, certo, e quello del sud. Quindi abbiamo questo differenziale importante che ad esempio la Francia non ha, o la Germania. Perché se guardiamo ad esempio ad alcune regioni del nord, come l'Emilia Romagna o il Veneto hanno un livello di disuguaglianza che è più o meno simile a quello della Svezia. Sì, 4. Quindi, sì, 4. Abbiamo veramente, cumuliamo tantissimi divari. Sì, che vuol dire che se la media è 6 volte, sì, e nelle regioni del centro-nord è intorno ai 4, soprattutto Veneto, Emilia Romagna, ma anche Lombardia, vedevo i dati, vuol dire che nelle regioni del sud è ancora più alta, perché se la media fa 6, lì arriveremo a 7-8 volte. E una, mi chiedono molti ascoltatori, però attenzione, visto anche il tasso di evasione e di nero in questo paese, stimato sì, malamente in circa 100 miliardi, può essere particolarmente falsata questa? Ma questo dato deriva da un'indagine campionaria su famiglie che dovrebbe tenere conto anche dell'evasione fiscale. Sono dati dell'indagine cosiddetta SILC, cioè Statistics on Income and Living Conditions, che l'Istat fa per l'Italia, ma gli altri istituti simili fanno in tutta Europa con metodologia comune, e poi l'Istat li corregge anche in base ai dati fiscali, tenendo ad esempio per molte famiglie tiene, per i contribuenti tiene il più alto dei due dati rilevati, quello dichiarato al fisco e quello dichiarato agli intervistatori dell'Istat. Certo, c'è la possibilità che ci siano ancora reticenze anche in questo tipo di indagine, ma in generale l'effetto evasione dovrebbe esserci meno rispetto ai dati delle dichiarazioni dei redditi. Allora, faccio notare che tra l'altro si nota che c'è anche una differenza geografica, non solo diciamo nord-sud, ma anche per il nucleo urbano dove abiti. I comuni del centro, area metropolitana, hanno, i comuni che sono area metropolitana hanno sia il più alto reddito netto medio familiare, però anche il più alto rapporto di disuguaglianza. All'opposto, i comuni che hanno fino a 50.000 abitanti hanno il reddito più basso come reddito medio familiare, ma è anche per questo la minor disuguaglianza. Poi c'è invece, si guarda su base regionale, un nord-est che è caratterizzato sia da un alto reddito medio familiare, il più elevato, tra i più elevati, ma anche la disuguaglianza più bassa. Io penso che sia dovuto anche, immagino Baldini, lei citava l'Emilia, il nord-est, alla presenza di tantissime piccole, medie, soprattutto piccole imprese, quindi una diffusione molto capillare sul territorio delle imprese, che rende meno ampia la differenza tra la parte più alta del reddito e quella più bassa. Sicuramente la presenza di tante piccole imprese aiuta molto, e soprattutto anche l'alto tasso di occupazione, cioè il fatto che molta gente lavora, sicuramente abbiamo un tasso di, in alcune regioni molto alto di occupazione. Poi c'è anche forse da dire che nelle grandi città la disuguaglianza è alta, però forse è più alto anche il tasso di crescita del reddito, quindi attirano lavoratori anche a reddito basso che comunque vedono in alcune zone la prospettiva di aumento del reddito, perché la disuguaglianza in sé è un aspetto solo relativo. Sappiamo ad esempio che negli ultimi 10 anni in Italia è crollato il reddito della classe media, ma questo non produce necessariamente un aumento della disuguaglianza, se appunto certo, il reddito cala diminuisce per tutti. Allora, dopo il traffico invece vorrei capire da lei e anche da una persona che è già stato nostro ospite, cosa sta succedendo sul fronte della formazione, perché è inutile girarci attorno, poi la formazione significa anche ridurre le disuguaglianze. Lei citava il fatto del nord-est dove il tasso di disoccupazione è particolarmente basso e questo contribuisce, e da lei anche un giudizio sul reddito di cittadinanza. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. No, vorrei collegare appunto il tema delle disuguaglianze anche al tema della formazione, perché abbiamo battuto molto la settimana scorsa, c'era il rapporto di scuola.net assieme a Radio 24, visto che entro il 31 i ragazzi che sono alle scuole medie inferiori devono scegliere la scuola media superiore. Abbiamo commentato in maniera anche abbastanza negativa quello che emergeva dal rapporto, dove si continua a prediligere soprattutto la formazione nei licei, soprattutto al sud, con quote molto basse sugli istituti tecnici. Non voglio tornare su questo tema, però vorrei ringraziare anche per averci raggiunto Giuseppe Melara, che è presidente e amministratore delegato dell'Agenzia per il Lavoro ed Ente di Formazione Formamentis. Buonasera Melara. Buonasera a lei. Voi operate dal 2003 in Campania, poi avete filiali in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Puglia. Diventate nel 2014 Agenzia per il Lavoro, avete fatto anche nel 2019 il lancio dell'Alta Scuola di Formazione Enogastronomica. Glielo chiedo perché Voi avete condotto un sondaggio anche sui giovani, in primo luogo del nostro Mezzogiorno, sì, sulle aspirazioni, diciamo, professionali. Quindi chiedo a lei un commento su questo e su come sta andando con il reddito di cittadinanza, poi lo chiederò anche Baldini. Prego. Sì, noi abbiamo condotto appunto un sondaggio che si chiama Il lavoro dei sogni, chiedendo a ragazzi che dagli 11 ai 15 anni, abbiamo intervistato circa 1000 ragazzi delle scuole del sud, gli abbiamo chiesto quale fosse appunto il lavoro dei sogni. In effetti le risposte sono state abbastanza diciamo condizionate dai media, cioè quindi sono usciti sportivi, molti hanno, circa il 13% dei ragazzi ci ha risposto che voleva fare lo sportivo, altre professioni sono uscite, quelle che insomma di avvocato, ingegnere, medico, molto legate probabilmente a quelle che erano, diciamo, i film, le serie TV richieste. C'è stata una assoluta mancanza di cognizione del lavoro dei propri genitori, quindi i ragazzi non sapevano bene descrivere la professione dei propri genitori, avevano una certa paura del mondo del lavoro e una necessità emersa del trasferimento all'estero per trovare lavoro. Senta, noi lo avremo ospite, ma Melara, visto che lei appunto opera, tra l'altro voi avete dei tassi di occupazione nei ragazzi che formate altissimi, dico lì il problema, a me non sorprende, però lo dicevo, che un dodicenne, tredicenne, insomma, possa dire vorrei fare cacciatore, vorrei fare l'astronauta, così. Quant'è importante la responsabilità della famiglia e dei genitori? Perché io sono convinto che vi siano delle variabili, fermo restando che se tuo figlio ha una predisposizione per lettere, per la storia, ho capito, nessuno dice che devi fare per forza di studio tecnico, ma io ho la sensazione che vi sia anche un elemento sociologico dei genitori, e cioè fa brutto mandarlo di studio tecnico non capendo quelle che sono le domande, sono 420.000 professioni che vanno, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, con tassi di mismatching, di mancato incontro domanda-offerta, che arrivano al 60% per gli operai specializzati, tecnici informatici e quant'altro. Quanto pesa la famiglia come indirizzo effettivo, al di là delle nella vostra esperienza poi quotidiana? Sì, diciamo che pesano due aspetti molto importanti. Uno è la famiglia, quindi l'aspetto proprio culturale della famiglia è quello che può trasferire. Il ragazzo spesso però dalla famiglia si fa influenzare, ma fino a un certo punto, perché oggi i modelli sono anche altri. Quindi gli amici, tantissimo gli amici, io poi lo sto vivendo con mio figlio che deve scegliere quest'anno, quindi siamo in questa fase proprio di scelta. L'influenza da parte degli amici, della televisione, dei social è davvero forse più forte addirittura della famiglia. E manca quello che manca totalmente, è l'orientamento da parte della scuola. Cioè noi partecipiamo magari a dei momenti di open day, ma l'open day è una forma pubblicitaria di comunicazione della scuola per prendere il ragazzo. Avremo bisogno invece, è la cosa più importante, che le famiglie insieme al ragazzo si confrontino con un sistema di orientamento che individui quelle che possono essere... Sono d'accordo tra l'altro il governo vecchio, quello giallo-verde, aveva elevato e poi reintrodotto l'alternanza scuola-lavoro dimezzando le ore, secondo me è un errore clamoroso, perché appunto nell'alternanza almeno vedevi come funzionava un luogo di lavoro. Mi dica una battuta, perché poi vorrei andare su Baldini, invece il reddito di cittadinanza, i Navigator stanno funzionando nelle regioni in cui vi siete presenti? Cioè vi stanno facendo un po' di concorrenza? No, è un disastro, assolutamente. Ci fanno concorrenza nel senso che noi troviamo i profili professionali, ma molti ragazzi non vogliono poi lavorare perché preferiscono avere il reddito di cittadinanza, quindi sui profili più bassi chiaramente. Ma e giovani? Sì, questo è un disastro sociale direi. No, lo dico perché adesso diranno che io non è che ce l'ho da adesso con il reddito di cittadinanza per la parte lavoro, ce l'ho da sempre, quindi prima ancora che mi scriviate gli insulti, vi dico già che la posizione di chi vi parla è da ancora quando si stava discutendo nel governo giallo-verde di introdurre il sottoreddito, di dire sì al reddito di cittadinanza come elemento di welfare, e cioè per aiutare chi ha pensioni minime da fame, sotto la soglia di povertà, chi è stato espulso dal mercato del lavoro perché e mancano pochi anni alla pensione, cioè chi è in condizioni di povertà, ma no al reddito di cittadinanza come elemento per trovare lavoro, perché il lavoro non lo trovi né con i Navigator assunti né così per legge. Trovi se c'è un tessuto imprenditoriale. È meglio spendere i soldi per creare zone di vantaggio fiscale nel nostro mezzogiorno, in cui un'impresa possa essere stimolata ad andare perché paga meno tasse, per farsi capire, con gli stessi soldi. Ma lì si è voluto introdurre anche l'elemento di politiche per il lavoro. E Melara, che ripeto ha una delle più grandi agenzie, ci dice che lì è un disastro, ce lo dicono tutti, che si sta facendo una concorrenza tra il ragazzo che preferisce prendere i soldi della reddito di cittadinanza invece che fare i lavoretti. Uno mi può dire, vabbè, ma a questo punto farei anch'io così. No, perché quando fai un lavoro comunque impari qualcosa. Se prendi solo il reddito in attesa che il navigator ti chiami, non impari nulla. Comunque, Baldini, anche lei su questo. Sì, beh, era già emerso da mesi, no? Appunto anche nel dibattito precedente all'introduzione del reddito di cittadinanza, che il suo punto debole, diciamo ne ha due di punti deboli: la fretta con cui è stato introdotto, sostituendo in fretta e furia il reddito di inclusione, che era sicuramente sottofinanziato, però prometteva appunto una possibilità di espansione futura, forse senza creare squilibri e anche disuguaglianze, però diciamo è importante che comunque si investa contro la povertà. Quindi la fretta è il primo punto. Il secondo punto, appunto, l'avere voluto mescolare in una sola politica, diciamo, l'obiettivo di contrastare la povertà e l'obiettivo di creare occupazione. Si è visto che almeno finora non funziona, spero che le cose migliorino. Va detto anche che contrariamente appunto al disegno iniziale, bisogna tenere conto che moltissimi beneficiari del reddito di cittadinanza, io credo siano non trentenni che non trovano lavoro, ventenni o trentenni che non hanno il problema che non riescono a trovare lavoro, ma sono cinquantenni che il lavoro l'hanno perduto e che invece non vogliono o non possono o non riescono trovare appunto un'occupazione e pensano invece più che altro anticipo della pensione. Ma quando usiamo il reddito come elemento di welfare sociale, non so come dirlo, come era il reddito di inclusione, che era troppo debole, fatto tardi e male dal vecchio governo, dal governo diciamo Gentiloni, a me va benissimo, perché deve esistere una forma di paracadute, di rete di protezione. Altra cosa è immaginare che un 25enne debba stare lì a aspettare che il navigator lo chiami. Ho già detto molte volte, uno prende e va a cercarsi lavoro dove il lavoro c'è, e mi dispiace, a maggior ragione se hai 25 anni, è cosa diversa se ne hai 58 o addirittura sei in pensione, e lì occorrono politiche solo sociali. E io invece ridò appuntamento, perché mi interessa sempre parlare con chi poi il lavoro lo trova e con un tasso di occupazione tra il 90 e il 100%, a Giuseppe Melara, per fare anche il punto su, addirittura avete concorrenza voi dal reddito di cittadinanza. Grazie a ambedue, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.